sei. Non mi dici Bibbo come interessa, perché tanto sarebbe da mettere a repentaglio tutto. Non c'è niente più da dirci Bibbo. La parte amatoriale ancora già c'è. Però ad esempio l'anno scorso quando sono andato in fiera ho contattato alcune aziende per poterti dare lo stoccaggio delle radio per la vendita, quindi contro vendita. Loro vogliono fatturare subito, entro 60 giorni li devi pagare. Vendute o non vendute, ci vuole un po' di capitale, vogliono fiduzioni grosse perché sai, stiamo parlando di radio amatoriale, quindi costano un po' di soldi, vogliono fiduzioni grosse, eccetera, eccetera. Non ho voluto rischiare, non ce n'è più mercato lui, non ce n'è più mercato. È chiaro che se uno ha un negozio qua e compra a 10%, ci deve mettere il suo guadagno, quindi aggiungersi tutto il baravano e la gente se lo ordina fuori che costa di meno. Noi non siamo più macchina. Ma diciamo che qua non c'è, non prima c'era qualcosina di apparecchiatura, forse mai per quello la gente non, perché se non vede, capito? Perciò ci vuole un negozio. Secondo me se apro un negozio proprio come Dio comanda, che vanno baracchini proprio messi in esposizione, non è che li vendono, è come, la gente compra e non è che entra anche in frequenza. Però se non vedono, non vedo come fanno. E vabbè, ma è cosa pensi di poter guadagnare? Quando tu un Ara 48 lo compri a prezzo di costo, perché non so quanto costa, che costa il fatto, mi pare che costi intorno, il fatto, proprio il fatto, finito di fa, costa sulle 90 euro. Ok? Quanto lo puoi vendere? 120 nuovo? 130, cosa ci hai guadagnato? Da lì devi pagare tasse, devi pagare tutto. Non è facile, non lui. C'è più margine sulle radio amatoriali. Su quelle sì, perché stiamo parlando di euro, capito? Stiamo parlando di euro grossi. Ma un baracchino quando tu lo vendi 120 euro, l'hai pagato 90 euro in fatto, togli l'IVA, c'è un guadagno, un margine di 10%, non è niente. Ma poi io i baracchini non li voglio vendere, no, ma già li farò. Non me la fatti nulla, prendo un bel negozio, lo apri di radio amatoriali, antenne, insomma, tutta la parte elettronica del sistema radiantistico, quei microfoni, PR, novendelle, cavi buoni, tutte queste cose così. Ma no, un cazzo baracchino, poi metterci in mezzo qualche baracchino, sotto ordine, sotto costo, ma VHF, veicolari, portati, VHF. Era un discorso che avevo già fatto qualche anno fa, ne avevo parlato anche con Marco, con Vola, ma non c'è mercato, capite? Guarda, io sono sicuro che se lo fai come Dio comanda, fatto bene ovviamente, poi baracchino come hai detto tu, il ratto come hai detto tu prima, scritto l'IVA 90 euro. Per 120, che l'abitui tu? Solo per il cazzo 160 euro la GBC, tu trovi 120 euro. Ma poi che tu vendi anche 150 euro, va bene. Guadagno, cioè. La GBC è vendendo di 747 a 70 euro. Certo. Chi ha cagliato di quanto riguarda di cui io. Non è che per chi vuole vedere 170, tu vedi 170. Se vuoi che il mercato cresca nel tuo settore devi fare i prezzi più bassi degli altri. Se ci stai come margine, come guadagno, se nella quantità anziché guadagnare 200.000 euro all'anno, nella quantità ne guadagni 150, va bene lo stesso. Però hai venduto, hai un margine. non lo so, ma è un investimento che mi piacerebbe fare, però sono sicuro che non c'è il tanto, non lo so, la vetrina già la farei subito, basta smontare solo il primo piano con i pinocchi e mi fai la vetrina. Ma infatti, come ti ho detto io, metterò 160, come lo danno io, 170, lo dai 150, 145. Vediamo, inizi a fare qualcosa. Ma dimmi una cosa, Cla, ma di che vuole il negozio, la GBC? È mio, È una società che si chiama RR Elettronica. C'è lui e il fratello è un altro socio. Lui ha un'altra anche a Nuoro e una ad Alghero. Sono i tre. Ce n'è un Alghero che è lì dove c'è la Mercedes, la chiesa, sotto i portici. E poi ce n'è una a Nuoro. Sono i tre. Però Tonino è responsabile qua di questa di Sassari. Allora, praticamente vuol dire un operaio, cioè un commercio là. Massimo. Massimo è entrato, non sappiamo manco. Devo mandare un piede e dargli una tazzina di caffè. Adesso è molto bravo, molto preparato, ma l'ha istruito bene Tonino, l'ha insegnato un sacco di cose. È un dipendente, Massimo. E come trova Tonino il padrone? Tonino è il padrone, Massimo è un dipendente. Ah, ecco, allora già ho capito bene. Certo. Certo, ma Tonino non era così, quando è morta la moglie si è messo rincoglionito. Se no era un bel gamba prima che stesse male la moglie. Conosco, guarda, io lo conosco a Tonino dal 1973. Quindi praticamente. Da quando ho iniziato praticamente a salire a Sassari a comprare cazzate. E ci siamo conosciuti e mi ha sempre trattato benissimo. Poi quando ho iniziato a usare questa radio, la prima radio me l'ha ordinata lui. Il 430 me l'aveva ordinato lui. Il 430 è il primo che avevo comprato. Qualche volta HF lui prima c'aveva la Linco come marca. Io ne ho avuto 3 o 4 di Linco. C'era più mercato, perché gli animatori erano tutti in fase di crescita, quindi è chiaro che c'erano aggiornamenti, compravano. Ma su 3 dentro gli animatori invece la Sassa li fa vedere in 4, cioè. Vabbè, c'ho anche lì un casotto. Vabbè, mica devi vedere solo baracchini, cazzo, devi vedere un po' di tutto lì, antenne, non antenne baracchini, antenne TV, antenne di autoradio, insomma, un po' di tutto, ecco. Vabbè, la componentistica ci vuole per forza, se no cosa ti metti a vendere? La componentistica ci vuole, chiaro, tutta la parte satellitare, tutta la parte digitale, tutti i componenti che servono, transistor, diode, resistenze, condensatori, tutto, devi avere tutto, siamo anche negozi elettronici. Infatti quello si chiama EGBC perché è il marchio ufficiale di quello che ha Tonino, ma l'azienda sua, quella si chiama RR Elettronica, capito? La sua azienda è quella, è il marchio EGBC, ma mica il suo negozio è lui EGBC, è il marchio EGBC, è la cosa, non ti posso dire, l'azienda che lui lavora è la GBC, però lui c'ha la sua azienda lì dentro che si chiama RR Elettronica, capito? Non ricordo perché un giorno l'ho fatto la segna, ma l'ho fatto intestare così. Molla. La prossima molla. la vita 747 invece 54 euro. 54 euro nuovo, compreso l'IVA. Ehi, 54 euro. Ma no, aspetta. Hanno questo. No, aspetta, se che vai tenere, che non vedo. Eccolo, hanno più IVA questo. No, più IVA. Questo è 54 euro più IVA. Perché non ho capito. Ti aspetto, ti stanno beffando. segnalo su chi è, avanti. Piedino, è piedino. Cazzo di Dio. E poi con un... dopo lì, però. Chi sono i blocchi al vero? Chi sono? È intelligente. I blocchi al vero? Che cosa può essere? Stelio. No, già lo capisci dopo quando vai a... E già avete scritto giusto. Sì, ma non me ne fa prendere adesso che lo usano loro poi. Dopo te lo guardi con calma. Via. Ciao Pierpaolo. Lui. Va bene. Non si capisce, basso basso. Ho capito che cosa è. No, l'ho capito adesso. Bisogna vedere se hai capito quello che ho scritto io. Però vado a vederlo. Però con calma. Bimba bimba. Mi sembra che non ti devo sentirti un incidente. Quando muovo come cebolla. Cazzo, c'è una moglie forbice, l'hanno operato la gola, quando è il mese scorso. Con la sigaretta in bocca. Va. Oh, tu muore la gola. Con la sigaretta in bocca. È decino, ma... Come chiama signor Gramme? Signor Gramme, non me ne frega niente. Quando muoio mi ci porta. Ho perso la gola, ecco, con il buco ce l'ho fatto. No, c'è niente. Parla tranquillamente, aveva un tumore. Un altro incontinente. Non ho tolto. Era un po' rauco. Se ne sono accorti. Ma no. Tagliettino normale, non ci vede niente neanche. Ciao, ragazzi. No, non li hanno tolta, ma hanno proprio operato normalmente. E beh, se ne è andata a Sassari, guarda. A Sassari? Che c'è? Era la Verona. L'ho operato verorissimi. Ciao, ragazzi. Ehi, se avete che sono del professore di Vanco da Coglione, no, a Sassari. Mi fa tornare, manca. Ma fa pagamento, figurati. In giro una settimana di nuovo qua. Scusa, mi è andato il martedì, mi ha detto. È rimasto il martedì, mi hanno operato di mattina. Mercoledì, giovedì, venerdì, ha fatto il sabato e il lunedì è rientrato. Adesso un po'. Noi pensiamo che come ti ho detto che è di Washington. E non vedi un cane di tuo già. Cioè, di un tempo. Ma lì a lui non le hanno assolutamente. Tu cioè non si vede neanche. Non è neanche l'arco parlando, normale, così come parlo io. E c'era tutto bene. Era già da tanto che doveva farlo. Stava peggiorando. Non so, burro. Oh, tu me lo ricordo vocale a me. Ah, positivo, positivo. Che la voglia. E io a me, ma tanto sia tutto bene. E tu oggi non sai mettere. Cioè sai mettere, ma sai esisci. Ma lui ci sta bene. Allora tu la sigaretta in bocca, cazzo ci muovo, due pacchetti di marmora lì. Cazzo. Vabbè, vabbè. Pesantuccio, eh? C'è pesantuccio. Comuna io e a fuoco. No, non ho mai fumato sigarette forti, no. È per roba leggera. Non ci riesco tanto, quindi. Mi fa proprio male. Vabbè, vabbè, va bene. Cazzo. Era la sabato. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va b scusi, ma è un problema, se si può, sabato e domenica si può. Ah, io sono detto uno sabato mattina, termino all'1:30 e poi riprendo martedì, perché domenica e lunedì sono a riposo. Perciò non mi interessa. Sabato sera siamo lì al campo, c'è la partita, mi rilascio, poi quando, se non piove, che è giornata, insomma, si può uscire, sabato mi triscio. Oh, sabato sempre, non mi voglio, non vado fuori. Solo per le palle, cazzo, sono tre sabati, non vado da nessuna parte, né sabato né domenica. Parecchio ed è quello ed è che hai tempo che a attaccarti, non so che volte ti viene il sonno a tavola, e dopo cena ti viene il sonno. Yeah. controllo subito. Attenzione, Antonio Acio, il televisore lo sto seguendo poco, mi l'abbiamo acceso poco fa, c'è il Rai Premium, mio figlio Claudio sta seguendo una puntata che avevo già visto con Massimo Vini, quindi non più di tanto, però questa cosa che stai dicendo tu mi piacciono, questi programmi televisivi che ci sono dei concorrenti, lo sempre diciamo guardati e molto apprezzati, perché si va certe volte gente che non sa una veloce, ma gente che ha una cultura generale anche fuori dal comune. Questo è il maresciallo delle guardie municipali, capito? Del vigile urbano. È anche intelligente. Non è tutti i giorni che capita di fare queste domande da 1 milione di euro. Non capita tutti i giorni. Domani, tanto inizia alle 7:05. Chi ha discutimi? Chi vuole essere milionario? Quel programma lì. Domani fa la domanda da 1 milione di euro. Se ne va bene se ne porta, se no se ne va con 300.000 euro e non sono neanche noccioline. Ok, io invece ti dico una cosa, io guardo la finale sempre di Carlo Conti, dopo il gioco c'è la parola, diciamo, del tuo finale, beh, lo sai quante volte la sbagliano loro, io li indovino quasi sempre. Mia moglie dice, perché non fai, questo che io molto vivo nella mia pochetta, nella mia miseria, sono non vado anche, se ho anche una cultura andare, però ti dico ancora che le più volte la parola la secco, e poi non so come si svolge la trasmissione durante l'arco, hai capito, che riguarda quello là lì, perché io arrivo sempre che è quasi alla fine che c'è la ghigliottina che tagliano, hai capito, i montepremi, però l'ultima cosa la seguo sempre, mi memorizzo quello che è, e questione, capito, se dovrei andare a certe cose, sono sicuro che qualche cosa, diciamo, risponderei, perché non sono proprio troppo, e niente, però ce ne va proprio gente che va così. L'altra sera ce n'era uno che era molto preparato, però poi all'ultima parola pare che non si prende altro e cadono lì. Sì, succede. Guarda, hai ripreso? Prego. C'è stato il break avanti. Buonasera conferenti da questa parte di Ocino, buonasera a tutti quanti. Da Parigino, compagnia di Claudio Sfarbino, di Gianni Capri2 da Ruggini, e niente, avanti perché voi, sono buonasera. Adesso è vicino. Claudio, ci sei? No, sono ancora qua, dove? Ti ho rilanciato perché voi, c'è Gianni Capri2 da Ruggini, c'è Claudio e ci sono io. Avanti perché voi. Buonasera all'amico di Ugini, qua è Ugino 7351 che parla da sera a sera, grazie. Ok, ciao Leoncino, ben sentito, aspetta con qualche vitamina. Comunque, metti in picchiamo, anche se mi piacerebbe abitare di auguri, hai capito, però abito a Muros, purtroppo, e si è sbagliato, non dico Antonio Falchetto, si è sbagliato. Ma chi usi di un bel paese, si può sì. Riprendi ancora Leoncino, Capri2 ti rimette il cambio e ricordati Muros o non usi. Va bene che Antonio è uscito dall'altra banca, è ancora stanco. Va bene l'amico di Muro, riprendi Antonio. Positivo, sbagliare mano. Muro sono Muro. E ripeti, mi piace, sì, sarebbe piaciuto viverci a Russia, ma abita Muro, esatto, è stato un errore così. La stanchezza è tutta, KK. Gioia, Ando, a te, invece che gliene scorti dall'altra testa, no? Gliene scorti, no, che me l'altra testa, no. È un bel programma quello, io segue tutti i giorni, mi piace troppo. E adesso ripeto con Ulisse, gli va bene, domani se ci porta via a me il gruzzoletto e andrà bene. Avanti Claudio. Io. Ciao Giuseppe, buonasera, mi hai sentito? Va bene. Prima io no, non mi tratta come sto tormentando la Siria, no. Mi dispiace raga. Vi lascio, proseguite voi. Ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Giuseppe, no, sono troppo stanco. Sono troppo stanco. Buonanotte a tutti e ci sentiamo alle prossime. Avanti Gianni. Sì, ciao Claudio, ben sentito. Ogni tanto può piacere cambiare quattro piastre. Quando ci siete io mi affaccio sempre. E ti rilascio gli amici per salutarti, spero che ci rendiamo in seguito. Che vizio? Paga. Ah, e quello che lo sapevo. volevo, e quello già lo so da parecchio, già un paio di giornate che ho fatto, non mi ha dato neanche quello che ho fatto, capito? Però è sempre lui, là, capo tutto. E cosa vuoi fare, però? Ero in coso, mi servivano i soldi, e cosa dovevo fare? Io ho accettato quelli che mi ha dato, capito? E ho fatto quelle ore là e mi sono preso quelli su che mi ha dato. Ho sempre il solito, ma che ne dai? Bisogna arrangiarsi, dai. E manco male che cosa è città. Qualcosa è in uscita, però, ma no, non è il concreto, capito? Non c'è il concreto, io lavoricchio, ma no, non è poco la spesa, capito? Lo so, è troppo. Quando uno caccia a pago c'è un casino, è un macello nero. Lo posso capire. Avanti, già. Io tutto, se sento qualche cosa, problemi non c'è a dirlo. Ti sento ogni sera. Sì, lo so, appunto perciò noi già ci sentiamo ogni sera, già, e dove tu lo sai, che qua la questione è lì. Ho cambiato l'antenna della macchina, ne ho messo un'altra molto migliore e più riportata, si sente? Che antenna è? Non è della Sirio, è un'altra che c'ha un coso nero con sotto le aggirate tipo con una molla, capito? Capito. Lo stilo ce l'ho nero, ma di gomma. È di gomma, Capito. Io ho capito cosa stai dicendo. Vabbè, già spara bene. L'altra mi sembrava più forte, boh, dove si, nello stesso punto. Positivo. Più forte chi sa che tanto la mai rivende. No, la radio. Ma popolo. Dimmi, ho detto, questa sera mi stai arrivando. Se c'è avanti ieri, se nello stesso punto non mi è arrivato. Ma stasera a casa sua, tu. Per forza ti arriva, e se tu casa sua. L'altro giorno era lì, era non mi arrivava. Non era lì, c'ero anche io il giorno. Ieri ho banchieri, non era lì. Era via Torino. Positivo già, ero via Torino. Alla 7 via Le Dante, capito? Adesso sono a casa. Uno su me che su questo già, ha voglia. Ha voglia che lo so rompe. E poi quando ha detto vicino che lascia tu gli hai detto, abbasci che ti intendo. Cosa hai detto già? Ma Antonio, gli stavo ricordando che prima tu eri via Torino, poi quando sei andato sotto casa tua, ti ha detto, abbasci che ti intendo. Cazzo, lì in aria ci arriva, capito? Chiaro, però io stavo parlando, della prima volta che sei entrato, che c'eri sotto casa tua, io non ti sentivo, è quello che volevo dirti da mezz'ora. Il primo giorno che sei entrato io non ti sentivo. Capo, perché c'è un bel cuore, ma hai capito. Capo, no, io non c'è problema, dai. Vabbè, ma come ti arrivo adesso? Guarda, non è male, otto sei qua. Perché anche la differenza con questa antenna c'è. Chiro, mi sembrerebbe di sì. E ora ti sta arrivando. E tu mi stai arrivando quasi 8 e qualcosa, 8 e qua, 8 e 4, 8 e 5, dai. Sì, che tratta, buon posto. No, già me l'ha dato un'altra persona, un altro che è tutta i baracchini, ma Chigiri, Mario Chigiri, lo conosci? No, negativo. Ma adesso ho detto che aveva un amico che aveva chiuso un negozio e che c'aveva ancora molte antenne. E quella persona lì me l'ha data. Quindi è nuova l'antenna. Positivo. Paga. C'è un'altra cosa a metterla nuova, Ma dove sta Cedro Cappotto? No, lo facevo l'antenna della radio, della casa. Ho tolto l'antenna e ci ho messo quella. E l'antenna l'hai messa sotto al cielo? Sì, già. Si sente bene, no? Adesso se si sente. Ah, Claudio, spavero, gli arrivo a 9 e qualcosa. Ma capo. Già va bene, già va bene. Tu domani il trabacco? È trabacco tutto il giorno, domani. Che zona? Sempre in zona Porto Torres. Ma di una cosa, già, tu non riesci a procurarmi uno, come si dice, uno per attaccare la corrente a casa? L'ho inventato? Non lo so, boh, io non ne ho, cioè, perché ce li sto usando, ce li ho tutti quanti da utilizzare. Se ti capita di avere qualche inventatore, almeno prendo questo baracchino e lo porto su a casa, capito? Perché sono in macchina ancora. Che bello. Almeno gli metto la base magnetica con l'altra antenna e cerco di uscire con quella, capito? Ma tu lo vorresti apprestartelo così? Cappa. Se sento qualcuno vicino, c'è lui. Pure quando ne vuole, dirgli quando ne vuole e vedere un po'. Paga. Bombolo, chi sei? Paga. E noi siamo... Adesso non conviene più prenderlo, né da usare, né a GPC, perché sono un sacco di dinamica. Noi per esempio già abbiamo cose, stiamo usando l'alimentatore switching. Alimentatore? Switching. Non è alimentatore, è a scheda. Cioè è diverso da un alimentatore normale. Sono piccoli. Però per esempio tu ti ricordi tanti anni fa questo alimentatore Manni, preso da 50. Adesso con un alimentatore piccolo puoi fare il doppio, hai capito? Cioè sono alimentatori che vendono. Cappa, però cosa vuol dire cappa? Non c'è la possibilità di poterlo comprare. O te lo puoi fare. Anche da un computer, dice che con Alessio Pomponio cerchiamo di procurarlo, capito? E di quello ne aveva Natalino. Cos'è? Di quello di computer mi sa che ne aveva Natalino. E tu Natalino lo senti? Lo sento, lo sa più entrare, entra qualche volta. Se ti capita, io dici... Se ce l'ha qualche computer vecchio, cerchiamo di portarlo. Io me lo dà e lo porto da Alessio Pomponio e faccio fare questo alimentatore, capito? No, bisogna fare solo una piccola modifica, tagliare dei fili, non so che cosa. E va bene. E pompa forte, Già lo so che pompa forte, lo so. Oggi è lo stesso sistema di quell'alimentatore del computer, è così, è un alimentatore però fatto per queste apparecchiature qua, hai capito? Switching si chiama, cioè è un alimentatore a scheda, non ha un alimentatore di normale, e la scheda sono ventilati, sono, e hanno anche la regolazione della tensione. Adesso si stanno usando così, si stanno usando, e poi costano di meno di un alimentatore di chi, hai capito? Bisogna buscarlo pure per lo fare, capito? Comunque già vanno bene anche quelli. Del computer, cosa dico? Io non me lo ricordo, me l'avevo detto come si bisognava fare, non l'ho mai fatto. È una fesseria comunque. Io non so che è una fesseria, ma è tutto a trovarlo, poi vediamo un po'. Adesso martedì io l'appuntamento con Alice un po' fuori, vediamo un po' di andare lì dalle 5 e vedere un po' dove buttano la roba, capito? Ragazzo, avanti già. Quello che ti voleva dire Antonio è che prima c'era il trasformatore interno, adesso c'era la scheda al posto del trasformatore. Lo so, però è l'unica, è trovare questa cosa, vediamo un po' cosa esce fuori, vediamo martedì, che c'è un appuntamento con lui e vediamo cosa riusciamo fuori, capito? E poi mi sta riparando l'altro barattino che metterò con l'altro microfono a casa, capito? Capito, cioè si buscherà qualche cosa. Vediamo un po', anche se non esco forte, capito? Con questa antenna, l'altra antenna che ho è la base magnetica, quella la prendo e la metto fuori all'esterno, alla finestra, e tanto è di coso, non è ferro, capito? È l'altro coso, come si dice? Quella delle zanzariere, come il hai capito già? Ehi, ho capito al 100, vai. E adesso, magari c'era qualcuno con un computer e togliete l'alimentatore. Vediamo un po' cosa ne esce pure, martedì. Vediamo un po', riprendi Anto, dai, popolo. È così che stavo usando adesso, molti usano gli alimentatori così, cioè li fanno proprio per questi apparecchi, con gli strumenti e tutto. Però sono preso dal computer, ma lo stesso, cazzo, va bene lo stesso. Non so, aiuto a trovarlo, poi mi ha detto che c'erano già Alessio e me lo fa. Poi devo lasciare questo baracchino perché deve fare una piccola modifica, capito? Bon. Aspetta che c'è Pierpaolo, forse vuole entrare. Pierpaolo, va. Positivo il capo, io leggo. Meno male che c'è qualcuno che mi ha fatto entrare. Evidentemente il vicino non ascolta la radio, è proprio. Buonasera comunque. Buonasera a lui, buonasera a tutti. E abbassa un po' quell'eco, che sei troppo ribombante. Troppo ribombante, sono. Fatto la perlata. Oggi? Sì? Direi di abbassare un po' quell'eco perché è troppo ribombante. Cosa c'è? Dimmi, cosa c'è? Ci ha detto che stai rompendo le orecchie, di abbassare l'eco. Abbassare l'eco, perché? Ha detto che è troppo rimbombante. Troppo rimbombante? Va bene così, no? Non abbassa, no, così abbasso, caro mio. Cazzo. Ma dove sei, Pierpa? In transito sulla 131, cambia. Ma sei autovettura? Positivo. Direzione Trabacco? Negativo, in giro sono. Ma in giro sì. Ma cava. Eia, sta arrivando quasi 9 qualcosa qua, cazzo. Ma sei nelle vicinanze? Come qualcosa, Icaro, troppo poco. Certo, troppo poco. È 9.30 quasi. E poco è poco. È troppo poco. Gianni, va bene, ti sto arrivando lì. Brava. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci Giuliano, quanto ti arrivo? 9:45. Sì, a quanto arrivava lo Smitter? Questo arriva 9:45, poi c'è quella striscia verde 30. Sarebbe di 9:45, striscia verde 30. Sì, 9, qua c'è scritto 9, sotto c'è 45, poi c'è quella striscia verde c'è 30. Ecco, bisognerebbe guardarla, dai. Che apparecchio è? È vecchio, hai capito, un vecchio modello. E come si chiama? Aspetta, non è da 48, è il primo vecchio modello del... Beh, adesso non mi viene il nome, non me lo ricordo, adesso ce l'ho sotto, scritto sotto, capito? Intec 34S. K. La modulazione, penso. Cos'è? La modulazione. Ah, l'hai riconosciuta da quello? L'ho avuto anche io con l'apparecchio. Ma sta sempre funzionando bene, è un gioiello. Sì, funziona ancora il mio. Io l'ho dato a Luca, Luca l'aveva dato a Principessa, poi non lo sta più usando adesso, ma se quando l'ha usato andava bene. Cappa. Questo è grigio, il mio è grigio, con il coso nero, capito? Con i numeri sono rossi, il display è bianco, dai. Grigio, il mio era nero con la mascherina grigia. Positivo. Sennò sono tutto con quel disturbo lì, no? Accendo la macchina, si sente faremo battuto nel barattino, ha capito? Quello perché vuole schermato. Sì, vuole schermato, sì. Cioè me lo devo far schermare, capito? Sì. Chi è? Dimmi per fa. Così va meglio, questa va meglio la radio. Ecco, ecco, questa va bene, questa è veramente ottima. Avevo compreso già che non di chi si non le piace, eccomi. Fare prima, mi preso le 11. radio più bassa. Poco e ancora non riesco a a connettere le persone, capito? Una volta che prendo l'orecchio, poi non me ne frega più niente, no, le riconosco al volo, capito? E gappa gappa, vabbè, te lo sto dicendo io adesso. A me trocca adesso. Abbastanza, cazzo se trocca. Guarda che è proprio un apparato con la mente forte. Gappa. C'è la scheda a colo, nuovo tipo. Forse no, non l'ha mai sentita. Lui si chiama quell'ecco così. Si chiama colo, ecco colo. Ma cosa va? Fate pure il sosso, me. Non so, appunto perciò gli ha detto alla sorella che lui, io la sorella la conosco, no? E mi ha detto che il volante lui è triste, c'è nel baracchino e non riesce più ad andare avanti, capito? E dunque gli ha chiesto la cortesia se gliela fa nuovamente di piantare l'antenna e il baracchino. Già ci riesce a farlo ragionare, solo che è dice di mettiamo a vederlo così, ma però qualche volta riuscivi anche a domarlo, a farlo fare buono. Ma non aveva sotto casa sua e metteva la porta e lui non parlava. Ma insomma, ma è una persona che non è neanche giusta, cosa fai lì a... Vabbè dai, diciamo che era malato, avevo detto due o tre figli, era... Io l'ho conosciuto di persona a lui, mi ha capito, l'ho visto un sacco di volte, ma c'è a me come mi chiamano invece di Leoncino, Buboncino. Dimmi, ti ho detto, io non mi chiamo Buboncino, io mi chiamo Leoncino. No, tu per me sei come parlava lui, no? Tu per me sei Buboncino, e ho detto, crocro. Per carità. Yeah. Vabbè, ma non prendevo troppo per il culo, ha servito della calza e si grattavano i peli, lui ci sentiva i peli, stava godendo, capito? Ma dice che si uccideva a paura di cose. Cos'è, boh? Si uccideva di quelle cose là, proprio a manettone, che chi ha preso quella casa dove abitava lui, dici che il muro non si poteva vedere. Ma cosa stava dicendo lì? Che si faceva? Cosa? Le pippe, non voglio dire parolacce. Che hai capito? A mano piena. Per carità. Oh, yeah. Per carità. Gianni, ci sei? Sei rientrato, sì? Gianni? Non è rientrato, Gianni? Sono comodo. Una volta è entrata la mamma, ha detto, mio figlio, mi hai fatto uccidendo, oggi se ne ha fatto così, così. Cioè, cos'è? Non ho capito, boh. Io voglio capire, lo stavamo uccidendo perché ci stava ammazzando di come di posso dire, ma non voglio di parolacce. Ho capito, lo so, dice lì, una volta quando era giù a carica, dice che lui è uscito il padre con un bastone che voleva picchiare a tutti, capito? Perché sono andati sotto casa sua e l'hanno messo attaccato di portante, e poi hanno acceso anche l'acquare misterioso, no? E li stavano bruciando il baracchino. Dunque, è uscito il padre. Mi state distruggendo, cazzo, mio figlio! Lasciatelo stare! Siete dei bastardi! Ha attaccato un legnare. Sì, hanno attaccato il legnare, hai capito? Lì stanno bruciando il baracchino. Sì. Beh, io c'ero da capo, lo chiamavo, ma non si bruciava mai, che si è apparato, ma lo sai di passaggi, già lo sai meglio di me, di passaggi che fa via, e a finare il dolce che va via. Già l'ho visto. adesso, già lo so, che ci aveva, allora, ma ho detto che lui ci aveva, dentro casa ci aveva un cavo modificato non so quanti canali, una mattoba a 7 radiali. Quanto va uno c'è qua? Con 7 radiali. Quanto vale uno ne ha 4? Allora è bugiato, cazzo, lui aveva, dice che c'aveva 7 radiali, che prendeva in tutto il mondo. Sì, un capo che pigiava adesso, la Mantova 1 ne ha 4, la Mantova 5 ne ha 5, la Mantova Turbo ne ha 8. E allora la Mantova 1 lui, dice io prendo anche la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda, prendo. Dove? Pagazzi non si intende. Non faccio giocare a capitare agli spagnoli. Ecco. Oh yeah. E tu domani cosa fai? Lavori? Va. Che lavoro fai, Bon? Secondo te se mi chiamo così che lavoro faccio? Polaio. E dove? Dove? Come? Quelle parti dove eri tu l'altro giorno. Hai capito? Non si vuole dire dove esattamente. Ma è esempio. Sì, ma in quelle parti lì. Ah. Ho capito. Ho capito. Ma di solito usi la moto quella grigia tu? No, ma io scrivo. E quale usi, mo? O il camioncino usi? Quella grigia. Ah, oh, via, per carità. E dunque, ma di una cosa, ma a voi ci ha lavorato un certo ragazzo, Silvio, canta. Negativo? No. Non l'ho mai conosciuto. No, perché no? Pensavo che lavorava, avevo visto un paio di volte questo ragazzo che lavorava in quella zona lì. Ah, questo è già Salvio. Ah? Silvio fece. Ehi, Silvio Carta, Ma non ha travagliato da noi, no? No, non ha lavorato con la nostra ditta. Con l'altra ditta. E più ho capito, capito. E ho l'altra ditta lavorata. E poi c'è quell'altro che già aveva capito, quello piccolino, lo conosci tu? Ragazzo minoretto. È uno piccolo, un ragazzo piccolino che aveva il negozio lì che vendeva gelati. Io non me lo ricordo. Ah, stai dicendo, tu stai dicendo Gaghero, il signor Giuliano. Sì, Gaghero. Quello piccolino che aveva il negozio delle cose dei gelati, te lo ricordi? C'era quel negozio delle bombole di Gaghero. Ma c'è ancora. Non c'è più il negozio lì. Come non c'è più? Fatto tutto. Per carità. Gianni, rientratosi. Ma è... No, non è rientrato. Che però è qua? Oh, se stai dicendo il signor Giuliano, va per tutto, ma fa parecchio tempo, ma... Pensavo che tu lavoravi lì. Ma negativo. Di entrare, no? Certo. Possibilità di entrare, non ce n'è, no? Questo c'è la possibilità di entrare. Dove stai trabocando tu, non c'è la possibilità di fare qualche giornata, hai capito? Non è negativo, io già non ne fa noi. Oh, yeah, per carità. E anche su quello, beh, se capita. bombole, non ce n'è problema. Se sento qualcuno, ma lavoro sta scarseggiando perché la canna di bocce su casa di città è un casino nero. Io ho capito, via. Vabbè dai. Riprendi tu, se è entrato Gianni, io rimango in ascolto, vai. Ciao, non entri più. Oh, rimango in ascolto e se le battaglie entro, ma riprendi. Se c'è Gianni, parlate, dai. Quando può poi domani alle prossime. Ciao ciao. Buonanotte.